incredulità, ero incredulo a vedere la passività, quasi la rassegnazione di Barack Obama, del presidente, di fronte agli attacchi, al comizio, come è giusto che sia, di quell'altro. E il fatto che, come dicevi tu prima, reagisca a 14 ore di distanza con un discorso preparato, mi ricorda quello che i francesi chiamano l'esprit de l'escalier, cioè dopo che hai finito di parlare con una persona, mentre te ne stai andando e scendi le scale, dici: accidenti, avrei dovuto dirgli questo, avrei dovuto dirgli quell'altro, e mai troppo tardi, oramai il fatto è avvenuto. E soprattutto è avvenuta una cosa, che non credo che i prossimi due dibattiti, quello fra 10 giorni e poi l'ultimo prima delle elezioni, avranno 58 milioni di ascolti, come secondo la Nielsen ha avuto quello di mercoledì sera. Ne avranno sicuramente di meno,